Il punto di Stefano Folli. Le espulsioni decretate stanotte contro i dissidenti 5 Stelle segnano uno spartiacque. Grillo e i suoi si trasformano più di quanto fossero fino ad oggi in una sorta di setta in cui esiste solo la figura carismatica del capo. Un movimento radicale e intransigente, come si è visto anche alla Camera nel voto di fiducia. Nello stesso momento il premier Renzi comincia la sua attività di governo non a Roma nelle stanze di Palazzo Chigi, bensì nelle scuole e nelle strade di Treviso. Il quadro è chiaro, un confronto a distanza di natura elettorale fra il Partito Democratico Renziano e i 5 Stelle. Il traguardo sono le elezioni europee. Il premier vuole svuotare il serbatoio di Grillo, al contrario questi vuole salvarsi e far deragliare il nuovo governo che vede come una minaccia. Se Renzi ottiene un buon successo alle europee, il suo governo è destinato a prendere slancio. Se viceversa i grillini guadagnano ancora voti rispetto alle elezioni politiche, diventano l'unica vera forza di opposizione. La posta in gioco è tutta qui.